Linee d'ombra di Matteo Caccia. Uno schiaffo ti può fare meno male, perché finisce lì, di una frase detta che te la porti volendo per la vita, no? Dipende da come te la giri. Quella frase, potenzialmente devastante per la psiche di un adolescente, è stata invece la mia più grande fortuna. Storie di un primo giorno di scuola, di una prof arrogante e di un incontro tra minatori e attivisti omosessuali in una puntata che si intitola Orgoglio e pregiudizio. Sei al tuo primo gay pride? Sì, il primo tutto. Ma questo è il modo migliore, ti ci devi buttare e basta. Ma è che si può cancellare un succhiotto? No, ma Mark dove è andato? Ragazzi, ascoltatemi. Dici dove è rifinito. Prendete un secchio e cominciate a chiedere offerte. Sono per i minatori. I minatori? Hai voluto lo striscione, Mark? È un gesto di solidarietà. Chi è che odia i minatori? La Thatcher. Chi altri? La polizia, il pubblico e i tabloid. Ti ricorda qualcosa? Certo, ho capito. L'unico problema che noi abbiamo e loro no è la censura cattolica, ma è solo questione di tempo. Mark! Lo so, non era in programma, non ci abbiamo pensato, ma è una buonissima idea, o sbaglio? Sbaglio? Con questo che ci faccio? Dallo le lesbiche, adorano gli striscioni. Gay e lesbiche sostengono i minatori! Gay e lesbiche sostengono i minatori! Questo è un estratto da quel film splendido che si intitola Pride, di cui oggi vi racconteremo la storia, che è una storia vera, è una storia che è accaduta realmente nel Galles e che riguarda dei minatori e un gruppo di attivisti per i diritti omosessuali, LGBT, lesbiche omosessuali, insomma persone che a nominarle sembrano lontanissime tra di loro, ma semplicemente perché la nostra mente va per compartimenti stagni e quindi pensare a attivisti per i diritti gay e minatori, uno dice vabbè che ci azzeccano l'uno con l'altro, invece ci azzeccano, e come. Questo film e questa storia lo racconta molto bene. Si intitola Orgoglio e pregiudizio, la puntata di oggi, e vi raccontiamo storie, come sempre facciamo, che girano intorno a questo titolo. Vi raccontiamo delle storie che hanno un confine, hanno la linea d'ombra che è stata varcata oppure no. La primissima che vi raccontiamo è una storia anonima. Capita ogni tanto che a Linea d'Ombra, al nostro indirizzo lineadombra@radio24.it, arrivino delle storie in cui l'autore della storia ci scrive non vorrò intervenire, oppure se raccontate la mia storia usate un nome falso, oppure tutte e due, cioè usate un nome falso e non voglio intervenire. Questo è uno di quei casi, non ricordo se lui non voleva che citassimo il suo nome, ma tant'è, non lo avremmo citato comunque. Ed è proprio una storia che riguarda un momento molto preciso, molto preciso. È il primo giorno di scuola superiore, che per lui evidentemente ha rappresentato un confine radicale, perché è in un istituto tecnico e vede arrivare un suo compagno di classe che non ha ancora conosciuto, perché appunto è il primo giorno di scuola, e dice wow. Questa è l'espressione che fa, e da lì in avanti sappiamo poco di quello che è successo nella sua vita. Però se per caso tu stai ascoltando questa puntata e voglia di farci sapere qualcosa di più di cosa è successo, non tanto con quel tuo compagno di classe, non è quello che ci interessa, ma di te, della tua consapevolezza di sé e di te e di quella linea di confine che hai varcato, noi siamo felicissimi di sapere quella storia. E poi racconteremo, a proposito di orgoglio e di pregiudizi, una storia di pregiudizio fortissima e di discriminazione di un insegnante nei confronti di un alunno. Questo qua non ha a che fare con i gusti sessuali, ma ha a che fare semplicemente con un pregiudizio che spesso e volentieri si ha nei confronti delle persone, in questo caso da parte di un insegnante nei confronti di un proprio allievo, che è una cosa che, se vogliamo, è ancora più grave del solito. E poi appunto la storia di Pride, dei pregiudizi nei confronti di omosessuali e in questo caso di minatori, e del grande orgoglio che invece li unisce. E poi continuiamo con la nostra storia seriale, la storia di Antonina Zoti e di suo papà Nicolò Azzotti, che è una storia di mafia, ma è una storia di pregiudizio nei suoi confronti, non casualmente ovviamente, ma di grande pregiudizio nei suoi confronti. E poi è una storia di rinascita, è una vera e propria storia di rinascita. Tutto questo nella puntata di oggi, che si intitola appunto Orgoglio e pregiudizio. Vi ricordo che potete riascoltare Linee d'ombra in podcast, potete, e un saluto va a quelli che ci ascoltano la mattina all'alba attorno alle 5, che so essere tantissimi. Mandateci delle storie anche voi, voi, che quelli che hanno una vita che comincia così presto, nella mia idea, che insomma non ho questo obbligo di alzarmi così presto, hanno una vita sicuramente interessante. Mandateci la vostra storia, linea d'ombra@radio24.it, più che altro perché voi la linea d'ombra la vivete quasi tutti i giorni, in particolar modo in primavera e in estate, perché dall'ombra vedete arrivare la luce, visto che ci ascoltate in quell'orario lì. Insomma, chiunque voi siate, a qualunque ora ascoltiate questo programma, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Benvenuti a Linea d'ombra. Mai avevo provato quelle vampate di calore prima, e non provenivano, come già avevo sperimentato durante quell'estate spensierata che era appena passata, dal cocente battere del sole sul lungomare della mia terra ad agosto, ma da dentro di me. Cosa diavolo sta succedendo? Mi chiesi. Ricordo la sensazione dell'eco del battito del mio cuore amplificato nell'orecchio interno, ricordo quella sua lunga sfilata per il corridoio. È il mio primo giorno alle superiori. Ho intenzione di reinventarmi, di cucire nuove amicizie, e voglio farlo nel migliore dei modi, lasciando indietro il vecchio me e tutte le sue insicurezze. Aspetto alla porta di quella classe che ancora non riconosco come mia l'arrivo della prof, quella della prima ora. Intanto chiacchiero del più e del meno, delle conoscenze comuni, con qualche ragazzo che proviene dalle mie stesse scuole medie. La mia attenzione viene all'improvviso rapita. Eccolo svoltare l'angolo. Leggermente in ritardo, chino sotto il peso della cartella, capelli spessi di un nero lucente e piastrati. Mi passa a fianco per poter entrare, i nostri sguardi si incrociano e lui, subito, abbassa il suo sotto il lungo ciuffo steso sulla fronte. Lo osservo fino al suono della campanella che sancisce l'inizio della giornata. Solo quel rumore metallico poteva spezzare l'incantesimo che si era appena creato. La disposizione dei banchi, su tre lunghe file parallele, dovrebbe facilitare il nostro socializzare tra ragazzi sconosciuti l'uno all'altro, e con me ci riesci bene. Trovo subito simpatici il ragazzo alla mia destra e quello alla mia sinistra. Riusciamo a scambiarci una serie di battute, qualche considerazione sulla scuola che abbiamo scelto e su quanto sacrificio comporti. Istituto tecnico, non vedremo uno straccio di ragazza per i prossimi 5 anni qui dentro, dice quello alla mia destra, e io annuisco convintamente. Intanto sto solo pensando che quella strana disposizione della classe mi tiene troppo lontano da lui. Lui che tra tutti sembrava avere qualcosa da dire che io non ho mai sentito. Lui a cui sentivo avrei potuto dire qualcosa che io non avevo mai detto. Seconda ora, il momento delle presentazioni. Scopro che è di un paesino di collina di un'altra provincia, che finito il secondo anno, negli ITIS, finito un biennio comune, si deve scegliere un ramo tecnico per gli studi, vuole seguire un indirizzo diverso dal mio. Ma scopro anche che è timido, introverso e ha un accento strano. Non ascolto le presentazioni dei ragazzi che seguono perché sono troppo concentrato nel tentare di fissare nella mia memoria il nome di quel paesino da cui ha detto di provenire. Un posto che non conosco e che voglio cercare più tardi, tornato a casa. Arriva l'intervallo, come gli animali selvaggi ripresi nei documentari, mi aggiro circospetto attorno all'oggetto del desiderio. Ecco arrivare il momento propizio. Uno dei ragazzi che venivano alle medie con me riesce a parlargli, a scostare leggermente quel velo di timidezza che vedo nel suo sguardo basso. Mi avvicino e mi presento. Eravamo ancora troppo inesperti dei rituali degli adulti per stringerci la mano, troppo acerbi. Peccato, avrei voluto sentire il calore di quel corpo, sentirlo vero, sentire se anche in lui ardono le vampate che ribollono in me. Quinta ora, arriva immediato il suono della campanella, quel rintocco che dà il via al caotico rientrare di penne e quaderni nello zaino, allo stipare tutto il possibile il più velocemente possibile. E lì, in mezzo a quel frastuono, imprigionato dalle file parallele di banchi, lo perdo. Ho giusto il tempo di vederlo uscire da quella porta sulla quale qualche ora prima il fato sembrava avermi messo ad aspettarlo. Vado a casa e non ci penso più. Ascolto la musica, gioco ai videogiochi e vado ad allenarmi. Mi scordo persino di guardare l'esatta ubicazione di quel paesino, di una provincia che non è la mia. Poi la sera, arrivato il momento di chiudere gli occhi, mi rendo conto che in futuro non potrò più baciare una ragazza con la passione con la quale vorrei baciare lui. Che tutte le ragazze che ho baciato in passato, forse le ho baciate solo per fare pratica e per non sfigurare quando sarà il momento di avvicinare a lui le mie labbra. Show me, show me, show me how you do that trick. The one that... Si parla di discriminazione o di principi di discriminazione in questa puntata che si intitola Orgoglio e Pregiudizio. Dopo la prima storia che vi abbiamo raccontato, che appunto, come avete sentito, non ha l'autore al telefono perché ha preferito rimanere anonimo, ce l'ha mandata e noi ve l'abbiamo raccontata per quello che è, ora ve ne raccontiamo un'altra storia che è sempre ambientata a scuola. Non ha a che fare con l'attrazione per una persona dello stesso sesso, ma ha a che fare con una discriminazione da parte di una prof nei confronti di un allievo, ed è uno splendido racconto non solo di consapevolezza di sé, ma di come un episodio che all'apparenza può sembrare molto negativo, cioè il giudizio di una prof, il giudizio negativo e devo dire il giudizio anche azzardato di una prof, può diventare una vera linea di confine che da lì in avanti migliora tecnicamente e concretamente la vita di una persona. Si parla di autostima in questa storia e si parla anche e soprattutto di consapevolezza di sé. Milano anni 80. Frequento la prima liceo scientifico. Una mattina, al momento della consegna di un compito in classe di inglese, la professoressa di inglese chiama tutti, uno per uno alla cattedra. Quando è il mio turno mi alzo, mi avvicino e la professoressa mi dice che non ho preso la sufficienza, ricordo qualcosa tipo 5, 5 e mezzo, ma aggiunge anche una frase, aggiunge un suo personale commento. Con un tono fra l'indifferente e il superbo dice: «Del resto non tutti sono in grado di fare un liceo». Quella frase, potenzialmente devastante per la psiche di un adolescente e la sua futura considerazione di sé, è stata invece la mia più grande fortuna. Il ragionamento che feci subito dopo fu semplice. Mi dissi: la mia intelligenza, notevole o misera che sia, è quella che è. Nessun giudizio esterno, particolarmente denigratorio o assai lusinghiero, potrà modificarla in alcun modo. Il mio quoziente intellettivo a disposizione è questo qui, e con questo qui dovrò fare per il resto della vita. Da quel momento aumentò di molto la mia fiducia in me stesso, e allo stesso momento ho istintivamente smesso di dare la minima rilevanza ad altrui giudizi che mi riguardano e che ho notato nel corso dei miei 49 anni spesso sono quantomeno influenzati dai complessi e dalle falle nella personalità di chi pronuncia quei giudizi. Secondo me nel rapporto con i suoi alunni tendeva ad essere un pochino fredda, un po' spigolosa, un po'... Vabbè, non era il massimo dell'empatia come persona. Quell'episodio sgradevole in sé mi ha dunque reso immune da quel tipo particolare di deficit di personalità che porta moltissime persone a vivere in funzione o comunque condizionate dal giudizio e dall'approvazione di chi si ha attorno. Dei genitori, dei compagni, degli amici, dei colleghi, dei conoscenti, perfino dei semplici passanti. Quanto a me, mi sono poi laureato e anni dopo ho per caso saputo di averlo fatto per primo della mia vecchia classe. E tuttavia, anche questo primato, peraltro assolutamente inutile, non ha avuto alcun effetto né su di me né sul mio quoziente di intelligenza, che tale è rimasto. E tale quale mi ritrovo, indipendentemente da quella prof d'inglese. Overgrown super shit against the GTX, it was rugged GT. Lessons learned from Rocky 1 to Rocky 3. Lesson 1, the A&Rs are in it to the hips. The overgrown super shit. The overgrown super shit. The overgrown super shit. Yeah, the overgrown super shit. The overgrown super shit. Yeah, the overgrown super shit. The overgrown super shit. Yeah, the overgrown super shit. Noi quando abbiamo pensato al titolo di questa puntata eravamo felicissimi, proprio con Anita e Panizza e Mauro Pescio, quando abbiamo trovato Orgoglio e Pregiudizio ci luccicavano gli occhi, perché sembrava tenere insieme tutte, non due, tre storie che vi abbiamo raccontato oggi, e sicuramente perché nella storia di Paolo ci sono entrambi, c'è il pregiudizio della prof e c'è il suo orgoglio nel dire io non sono come tu credi che sia. Pronto, ciao Paolo, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai, tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Senti, di questa prof di inglese abbiamo più notizie? Immagino di no. No, assolutamente. Io poi avevo anche cambiato scuola l'anno successivo per altri motivi, non per lei, quindi non mi ricordo il nome. Però... non di battesimo, ma della, come al solito succede con sì, i professori. Sì, sì, certo, no? la, il, insomma, rimangono tutti. Esatto, sì, assolutamente. Perfetto, poi a Milano. Esatto, esatto. Così. Io sono stupefatto dalla lucidità della tua considerazione, cioè perché tu a 15 anni dici, io, guarda, me la sono segnata, ce l'ho davanti agli occhi, la mia intelligenza, notevole misera che sia, è quella che è, e quindi diciamo, io con questo ho a che fare, punto. Sì, è stata una riflessione che ho fatto probabilmente successivamente, perché la cosa che mi aveva colpito al momento era questa frase, che me la ricordo molto bene, dice del resto non tutti fare possono liceo, fare un cioè... liceo. Un liceo, mi ricordo che aveva usato l'espressione un liceo, ah, un come liceo. Dire una scuola, sì, come dire una scuola impegnativa, non il liceo. Certo. Certo, e anzi certo, è peggio, certo. Perché come dire, qualsiasi cosa impegnativa tu non la puoi fare, che era una cosa abbastanza gratuita, perché io non è che fossi proprio somaro su tutta la linea da sempre, e vabbè, niente, questa cosa mi era rimasta un po' impressa, e negli anni successivi poi ci ho ragionato sopra, e quasi subito ho appunto pensato che non valesse la pena darsi troppo dispiacere per questo, e che poi appunto il ragionamento era semplice. Io così sono, con questo devo fare. E quindi con questo combatto tutti i giorni. Esatto, quindi, ma più che combatto, faccio le mie cose con quello che ho a disposizione. E poi non sono neanche venute poi tutte così male. Sì, sì, sì, sì, scusami, per combattere intendevo dire, diciamo, queste sono le mie armi con cui combattere, quindi uso queste. Sì, esatto, e soprattutto da lì mi è venuta appunto l'idea di tendere a non badare troppo su altrui, perché molto spesso è viziato dai complessi che hanno gli altri. Certo, certo, certo, assolutamente. E quindi bisogna fare avere un po' di, come dire, fiducia nei tuoi mezzi, che sono poi gli unici che non ti abbandoneranno mai, per quanto limitati possono essere. Sono tuoi e non te li porta via nessuno. Certo, certo, certo, certo. Senti Paolo, poi che cosa hai fatto nella vita? Insomma, da lì in avanti, o cosa fai oggi? Ma, quello che ho fatto da lì in avanti, a parte finire il liceo, fare l'università, lavori vari, adesso faccio tutt'altro, cioè che non ha nulla a che vedere né con il liceo né con l'università, perché adesso mi occupo prevalentemente di arte, sono passati anche una valanga di anni, no? Ok. Quindi faccio molto velocemente per dire che sono arrivato all'arte, mi occupo di fare un po' arte per conto mio, non mi definisco artista perché mi sembra un po' troppo autocelebrativo, artistoide. E niente, frequento fiere d'arte per comprare qualche cosa e fare una specie di lavoro di investimento. Così. Però è una bella cosa l'arte, da parecchi spunti. Ma non è una galleria? Di vivere... No, lo faccio come privato. Ok. Quando ci sono delle fiere d'arte, più o meno in Italia o all'estero, eccetera, vado... me le giro, guardo, se c'è qualche cosa che posso comprare per quelle che sono le mie possibilità lo faccio. È una bella visione che si ha del mondo attraverso gli occhi di artisti che sono sempre un po' interessanti. Beh, vista da qui, raccontata così, sembra una vita bellissima la tua. Sembra una vita bellissima, come tutte le vite viste da fuori sono un pochettino più belle di quelle che sono. Sembra meglio, nella certo, vita, certo. Naturalmente sì, va meglio che vite di altri, questo me ne rendo conto. L'unica cosa è che la vita degli altri sembra più bella, e poi ci sono anche delle persone, con tutto rispetto per tutti, che gli fai vedere dei quadri e non trovano che siano delle assurdità. Io poi prevalentemente giro fiere e mostre di arte contemporanea, e è pieno il mondo di gente che ti dice che l'arte contemporanea sono delle fesserie, sono delle cose senza senso. No, quindi bisogna avere anche una personale, come dire, non qualità, però essere portati per stare a guardare un quadro contemporaneo sì, che a volte può sembrare assurdo, ma che non lo è. quasi mai. Sì, sì, sì. Insomma, saperlo leggere dice, direi che è la chiave. L'ultima sì. cosa che ti chiedo, Paolo, e poi ti saluto, visto che tutta la storia che ci hai mandato gira intorno al concetto di intelligenza, di scarsa o notevole intelligenza, è una domanda stupidissima. Ti è mai capitato di misurarlo, il tuo IQ, il tuo quoziente intellettivo? Sì, l'avevo fatto, anche se non, un po' controvoglia, sempre per lo stesso principio, perché ho detto, metti che poi mi esca una cosa bassina che non mi soddisfa, poi magari mi vado a riprendere un'altra cosa che mi urta e che dopo mi tocca rigestire. Però poi alla fine l'avevo fatto, mi era uscita una roba, vabbè, adesso è inutile stare a dirlo perché sembra di volersi autoincensare. Sì, sì, comunque non male, perfetto, di cui ero soddisfatto, chiarissimo. Paolo, sì, ti ringrazio, sì, sì. Grazie per la chiacchierata e per la storia, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, un saluto a tutti. A presto. Ciao. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuole. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Grazie a Paolo per averci raccontato la sua storia, che sembra veramente una sorta di capitolo di un libro di self-help, quelli che riguardano l'autoaiuto, però presa a modo nostro, presa attraverso un episodio di vita. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui in una puntata che si intitola Orgoglio e pregiudizio. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'ombra. Matthew Warkos è uno scrittore e regista che dopo moltissimi anni di lavoro in teatro decide di provare a lavorare nel cinema, ma per i primi tempi il cambio non è affatto semplice, i suoi progetti faticano a prendere forma, fino a quando, ad un incontro, un produttore gli fa questa domanda: ma c'è una storia che ti piacerebbe davvero raccontare? Matthew allora gli racconta una storia di cui si parlava nel Galles molti anni prima, ma senza sapere se fosse accaduta veramente oppure no. Alla fine della storia il produttore ha gli occhi bagnati di lacrime, gli chiede di approfondire, di studiare bene il caso. La fortuna porta Matthew a Manchester in un museo di storia popolare. Lì trova un documentario amatoriale intitolato Dancing in Dulé, in cui un gruppo di omosessuali insegnava a ballare a dei minatori di Dulé, un paesino del Galles. Era la prova che tutta quella storia era vera. Di questa storia Matthew Warkos ne ha fatto un film nel 2014 e noi vi raccontiamo quella storia. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Questa storia inizia in un giorno del 1984 in un appartamento di un quartiere popolare di Londra. È la casa di un ragazzo di 24 anni che si chiama Mark Ashton. Mark si prepara per uscire. In televisione Margaret Thatcher parla dello sciopero dei minatori del carbone. Il disegno del governo è quello di chiudere le miniere senza preoccuparsi troppo delle conseguenze sociali che avrà questo gesto. I minatori rispondono compatti con uno sciopero ad oltranza. Mark spegne la TV, poi prende un secchio per le pulizie ed esce. Quel giorno a Londra c'è il Gay Pride e Marco si presenta con il suo secchiello, cui sopra scrive un'offerta per i minatori. A chi gli chiede cosa c'entrino i gay con i minatori, Mark risponde con una domanda: chi sta contro i minatori? La Thatcher, la polizia e i giornali di destra, gli stessi che sono contro di noi. Insieme al suo amico Michael, quel pomeriggio raccolgono più di 200 sterline. Finita la sfilata, si ritirano con un paio di amici in una libreria gay e fondano il LGSM, lesbiche e gay, che sostengono i minatori. Il giorno dopo prova a contattare i sindacati, ma quando dice di parlare a nome di un gruppo di omosessuali, gli sbattono tutti il telefono in faccia. Un piccolo spiraglio arriva da uno sconosciuto comune del Galles meridionale, Dulé. La signora del comitato del paese che prende la telefonata non capisce bene quello che dica questo ragazzo di Londra, ma li ringrazia e li invita lì, ad Ulè. Qualche giorno dopo, una delegazione dell'LGSM parte da Londra con un pulmino colorato verso il Galles. Portano con loro un prezioso bottino di qualche centinaio di sterline, sono per i minatori. Quando arrivano però, i membri del movimento si scontrano con una realtà molto più drammatica di quella che avevano visto sui giornali. Le famiglie non hanno più i soldi per pagare le bollette, nelle case manca il gas e l'elettricità, si fanno i turni per lavarsi e per mangiare nella sede del comitato. Ma l'impatto è traumatico soprattutto perché nessuno tra i paesani ha mai conosciuto o frequentato un omosessuale dichiarato. Molti faticano ad accettare la loro presenza nella comunità. Per loro fortuna, però, nella comunità esistono anche persone di vedute più elastiche. Sian James è proprio una di queste. Sian si è sposata a 16 anni con un minatore, ha 20 anni e ha 3 figli. La sua vita è fatta di pappe da preparare e pannolini da lavare, ma è una donna senza pregiudizi. Sian diventa il punto di riferimento in Galles per Mark. Con i soldi dell'LGSM, Sian porta beni di prima necessità in 9 comunità. Sfama 1000 persone a settimana. Sul giornale, sul Sun, esce un articolo intitolato Perverts Support the Pits. I pervertiti sostengono le miniere. Tutto volto a mettere in cattiva luce quello sciopero. Ma quello che vorrebbe essere un colpo definitivo si trasforma in un punto di forza per il movimento. Mark, invece di nascondersi, sventola quel titolo come una bandiera e il 10 dicembre del 1984 organizza a Camden il concerto Pits and Perverts. Guest star della serata, Jimmy Somerville e i Bronski Beat. Con quel concerto si raccolgono 5.650 sterline per i minatori, è una grande vittoria, ma non basta. Dopo 51 settimane di lotta, di manganellate, dopo 2 morti, dopo 710 licenziamenti e 10.000 procedimenti giudiziari, un congresso straordinario del sindacato votò la ripresa del lavoro. Ma il legame fra i minatori e l'LGSM non si spezzò. Il 29 giugno del 1985 i minatori del Galles guidarono il Gay Pride di Londra in segno di gratitudine per il supporto ricevuto dall'LGSM durante il loro sciopero. L'anno dopo fu proposta una mozione per introdurre nel manifesto del Partito Laburista i diritti dei gay. Anche se in passato la mozione non era stata accolta, quella volta passò grazie al voto in blocco del sindacato dei minatori. Sian James, dopo che la battaglia si è iscritta all'università, si è laureata e dal 2005 al 2015 è stato membro del Parlamento per l'East Swansea. Mark Ashton è stato più sfortunato. Nell'87 è morto di AIDS a soli 26 anni. Ma ancora oggi, se andate nel Galles e chiedete chi era Mark Ashton, tutti vi diranno, è stata la nostra Giovanna d'Arco. I'm not afraid to die. La storia che vi abbiamo raccontato forse l'avete vista in un film splendido che si chiama Pride, è un film del 2014 diretto proprio da Matthew Warkos, di cui vi abbiamo parlato in apertura. È una storia meravigliosa, è una storia dalla quale non si esce senza lacrime, soprattutto se la si vede al cinema o se la si vede in TV ormai, visto che sono passati 6 anni dall'uscita di quel film. La puntata si intitola Orgoglio e Pregiudizio. Ora lasciamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale, quella di Antonina Zotti. Ai suoi tempi non era possibile, ma oggi Darwin può andare in radio. Qui su Radio 24 è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Linee d'ombra. Dottor Falcone, lei concorda sul fatto che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10 anni fa? Beh, non so se sia peggiore o migliore. Certamente migliore non è. È una situazione di grossa instabilità e parecchio pericolosa, e per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e sì, temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Scusi, perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo. Il mio dovere di cronista mi obbliga a chiederle perché lo dice. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro. Non può dire di più? No, certamente. Quella che abbiamo appena sentito sono le voci di Corrado Augias e di Giovanni Falcone. Il tutto risale a un'intervista che Corrado Augias fece all'interno del suo programma che si chiamava Telefono Giallo, era il 1991, a Giovanni Falcone, che era in collegamento da Palermo. Erano passati 2 anni da un attentato che era fallito, che era andato a vuoto nei confronti di Giovanni Falcone. Era stato ritrovato dell'esplosivo sulla spiaggia in una borsa subacqueo davanti alla casa che lui affittava all'epoca, e sarebbero trascorsi pochi mesi, poco meno di un anno, per arrivare al 23 maggio del 1992, quando invece l'attentato di Capaci fece quella strage in cui persero la vita 5 persone, tra cui appunto Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Vi abbiamo fatto sentire questo stralcio in cui Giovanni Falcone dice letteralmente: Cosa Nostra sta preparando qualcosa di molto grave. Per molti è suonata come una profezia, visto che erano meno di un anno da quello che poi è stato l'attentato di Capaci, la strage di Capaci, in cui anche lui ha perso la vita. Ve l'abbiamo fatto sentire perché, per introdurre la puntata della storia seriale di oggi, cioè l'episodio di oggi, che è la storia di Antonina Zotti, che viene allo scoperto e per cui la vita cambia dopo la morte del padre, ucciso per mano della mafia nel 1946. La vita di Antonina Zotti cambia proprio nel giorno della manifestazione in favore di Giovanni Falcone, che avviene 30 giorni dopo la sua uccisione, quindi il 23 di giugno del 1992. A un certo punto lei fa una cosa che non aveva ancora fatta, cioè prende la parola, esce allo scoperto, e questo è quello che succede. Le parole mi escono dalla bocca a valanga, e quando smetto di parlare scoppia un applauso lungo e commosso. Io mi sento leggera, il mio cuore è ancora in tumulto, ma l'ho detto. Pensavano dovessi parlare dei morti, di quei morti recentissimi. No, io invece prendo il microfono tremante e dico: ascoltatemi per favore, anch'io ho qualcosa da dire. Di botto un silenzio, tentavo a riconoscere la mia voce, veramente non la riconoscevo, però mi sono fatta coraggio, sono andata avanti. Anch'io ho qualcosa da dire. Sappiate che la mafia non uccide soltanto i morti che noi oggi piangiamo,

grazie per avercelo raccontato, grazie per continuare a farlo. La sua storia seriale continua, prosegue di settimana in settimana, saranno 30 le puntate. Grazie a Mauro Pescio che l'ha raccontata e l'ha raccolta, grazie ad Anita Panizza, grazie a Luca Micheli, grazie a Paolo Corleoni. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!